Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Da tempo gli addetti ai lavori coltivano il miraggio di tirar fuori un po' di energia dal moto ondoso. Come accade per altre forme di energia rinnovabile, quella contenuta nelle onde del mare è abbondantissima, una roba pazzesca. Tutta altra storia però è riuscire a raccoglierla in modo efficiente, sufficientemente economico e non devastante sul piano ambientale. Il dato incontrovertibile è che, mentre per sole e vento delle soluzioni ragionevolmente efficaci si sono trovate, per altre fonti, come per esempio il moto ondoso, invece le idee solide scarseggiano. Però forse stavolta il miraggio è un po' meno lontano. Parliamo di un dispositivo che si chiama EDS, Energy Double System, nato da un'idea di Arturo Lama, titolare di Tecnomac, e perfezionato al Politecnico di Milano, in particolare dal professor Stefano Malavasi, e che infine ha portato alla nascita di uno spin-off, TecFlu, che mira appunto a svilupparlo commercialmente. Per parlarne in linea con noi c'è proprio Stefano Malavasi, professore associato di idraulica presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano. Buonasera Malavasi. Buonasera Melis. Allora, senta, facciamo una piccola premessa. Diciamo così, c'è onda e onda. Nel senso, questo è uno dei temi, dei motivi per cui è difficile tirar fuori energia dalle onde. Sì, certamente. Le onde variano nella stagione, variano coi venti, variano da posto a posto e variano a seconda delle distanze dalla costa. Mm-hmm. Questo è uno degli aspetti più principali che rende difficile sfruttare questo, il moto ondoso. Cioè ci vorrebbe un dispositivo diverso, ottimale per ogni tipo di onda, per ogni situazione diversa, cosa che ovviamente non è possibile fare, no? È un po' questo, certamente. È un po' questo il problema. Ecco, allora ci parli invece di questo dispositivo che naturalmente ti aspettiamo un po' affronti proprio questo problema. Sì, questo dispositivo è composto da due elementi, e da qui il nome Double System, da un galleggiante e da una pala. Il galleggiante prende la spinta dell'onda in senso verticale e mentre la pala prende la spinta dell'onda in senso orizzontale. Chiaramente la spinta dell'onda in senso orizzontale nasce quando siamo vicini alla costa. Quando prima, tendono a formarsi i frangenti, no? Anche le schiume per intendersi. Prima del frangimento, dove viene la dissipazione sì. maggiore di energia. E da qui l'idea dell'Energy Double System. Che rendimenti si raggiungono e anche che dimensioni ha? Le chiedo un po' questo macchinario, provi a farcelo sì, capire. Noi per adesso abbiamo fatto degli esperimenti in laboratorio, qui al laboratorio Fantoli di idraulica, e abbiamo in laboratorio tirato fuori dei rendimenti superiori al 40%. In diversi che è un valore condizioni d'onda, che è un valore riferimento, okay. Di riferimento per per questo tipo di tecnologia. Il vantaggio è che questa tecnologia diventa molto meno costosa quando si porta vicino alla costa. E questa è una delle caratteristiche. Ecco, appunto, parliamo di oggetti, per intendersi il braccio, che la distanza sì. tra galleggiante e il punto in cui questi sistemi sono attaccati alla costa è una distanza di 6 metri, quindi parliamo di oggetti galleggiante qualche metro di diametro. Degli oggetti non piccoli ma neanche enormi. Ecco, le chiedo appunto, rispetto ai tanti tentativi che si stanno facendo, che cosa secondo lei è convincente di questo progetto? Convincente è che sfrutta tecnologie sostanzialmente note di trasformazione dell'energia e quindi know-how conosciuto. Anche componentistica, vero? Componentistica disponibile. Conosciuta, sì. Componentistica conosciuta e poi sostanzialmente i costi-benefici. Il fatto di essere posizionato vicino alla costa o addirittura in corrispondenza di banchine frangiflutti, insomma, robe che esistono già. Certo, permette di avere un costo di costruzione e un costo di gestione molto ridotto. Ecco, perché uno dei motivi per cui spesso i conti non tornano è che altre tecnologie richiedono la costruzione di infrastrutture in mezzo al mare, sostanzialmente, certo, cosa che costa molto e dura poco spesso. Volentieri. Certo, anche semplicemente per portare l'energia dal punto di produzione alla rete nazionale. Senta, quanto si produce? Con 100 metri di banchina quanto si produce? Ho sotto mano i dati per 30 metri di banchina e per esempio in condizioni di onde diverse posso arrivare a produzioni dai 90 megawatt ora l'anno ai 160 megawatt ora l'anno, chiaramente dipende dal posto in cui le installo. Diciamo che sono 10-15 famiglie, il consumo di 10-15 famiglie con 30 metri di banchina, più o meno. Sì, in media sì. Va bene, grazie professor Malavasi. Grazie a lei. Abbiamo ancora qualche secondo, perciò ne approfitto per segnalarvi un concorso letterario, un concorso di scrittura, Respirare parole, indetto dal Comune di Milano per raccogliere idee su come i cittadini immaginano la città del futuro. Durerà fino al 10 di gennaio. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani. Buona serata.